Barisoni è una voce meravigliosa, però levati dalle palle. Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Solo alla Zanzara puoi sentire nel giro di 20 minuti razzi alla stazione degli autobus di Pescara raggiunto dal console coreano, la 75enne che riceve le carezze dagli angeli mentre il figlio manda a fanculo Cruciani, il generale Pappalardo, l'attivista che strappa l'impisi, il bipolarismo di Locascio, puttane, trans, tossici, siete schifosamente indispensabili. Vi amo! Uè, nano di merda! Oggi ne abbiamo di argomenti, eh! A Torino il negrotto c'è il creatore di felicità che ha scannato un italiano per un cazzo. E tu sicuramente sarai contento e gli darai ragione, come a Butumbu. E quell'altro, l'avvocato che ha sparato per difendersi dai ladri e ne ha stecchito uno. E tu gli darai contro. Da bravo testa di cazzo, quale sei? Ciao, nanetto. Mamma, senti, ma cosa ne pensi di Cruciani e di Parenzo? Che so due strunze. Lo dovevo fare a nome di tutti gli italiani. Italiani! Giuseppe, ciao. Eccoci qui! Ecco qua! Mamma mia! Che bel menù! Amico mio, però parliamo di una cosa importante, una cosa grave sì. Che è successa oggi, anzi ieri a Latina, no? Domenica sì, pomeriggio. Sì. Delle persone comuni, normali, delle persone che appartengono alla borghesia, anzi direi quasi al proletariato, una famiglia in casa. Arrivano tre ladri di cui alcuni pregiudicati, parentesi, napoletani, ma questo non c'entra nulla ovviamente, che entrano dentro l'abitazione. Arriva il figlio, quindi due napoletani, tre pare che fossero, tre napoletani napoletani però, quindi non negri, diciamo, no italiani. Italiani, tre italiani, quindi in questa storia abbiamo tre ladri italiani, tre, più o meno, sì, si sa, tre, sì. due più il morto bene, cercano poi di introdursi dentro, anzi entrano dentro un appartamento sì. Scatta l'allarme, arriva il figlio, avvocato peraltro, arma in pugno, arma sì. regolarmente certificata sì. e tutto dentro, l'avvocato Palumbo entra dentro l'abitazione, anzi sì. si sì. ferma poco fuori e arrivano i ladri, lui non si sa per quale motivo, lui dice sì. ho avuto paura che mi aggredissero, spara e ne ammazza uno. Ragazzi, questo qua va, non va nemmeno processato, non va fatto nulla dentro, questo va messo lì, gli va fatta quasi una, un monumento, gli va data una medaglia al massimo, va premiato, questo va premiato. Questo signore in galera, infatti, è a piede libero. Questo signore che ha difeso la sua casa, quella del padre, è a piede libero. Sì, ma è semplicemente indagato per perché omicidio. È morta una persona. E beh, ci credo, perché cosa? Adesso, ovvio, questo forse, ha sparato. Questo è forse inevitabile che sia così. È un avvocato, lo saprà anche lui. Ma no? Cos'è? Ha sparato. E allora? Come è se fatto. Lo. Come sparare? È morto uno. È morto un ladro. È morto. E allora? E dunque? Ma è semplicemente un atto dovuto all'indagine. Ma in quale paese? Ma vieni dal Qatar. fatto. No, ma ragazzi, ma da, in quale paese sei cresciuto? Ragazzi, io mi rifiuto. Si chiama stato di diritto, no, non è colpevole, no. È tecnicamente indagato. Adesso sottoposto diranno, a indagine. Adesso diranno, sì, ma ho capito. Ed è ovviamente che a piede libero, non adesso, è che l'hanno arrestato. Adesso quello diranno, tu adesso diranno. Ti dovresti arrestare, sì, certo. Qualora lo avessero arrestato, tu avresti dovuto alzare il braccio, fare la trasmissione, dire: hanno arrestato una persona che si stava difendendo in casa. Non è andata così, non hanno arrestato l'uomo che ha ucciso una persona. No, però attenzione, non l'hanno arrestata. Adesso diranno, vediamo un po', si poteva evitare la sparatoria. Beh, certo, si poteva evitare di sparare, ma cosa si poteva evitare? Questo si vede piombare così davanti, tre signori, che non lo sapeva lui, ma questo qua poi si è scoperto il morto, per esempio un signore di Napoli di poco più di 40 anni con dei precedenti. Cioè un signore, non è un novellino, non è un po' uno che ma capita infatti, lì per caso. Difende, ragazzi, i ladri. Ha fatto benissimo a sparare, dovrebbe essere premiato stasera. Infatti ha sparato, premiato ed è stato stasera indagato, però per capire cosa è successo. No, deve adesso si deve la dinamica, difendere, c'è un morto. Soldi, si deve difendere, è un avvocato, soldi. Quindi si difende da solo. Ma non ti puoi difendere da solo. È un avvocato e si difende da solo. Non ti puoi difendere da solo. Comunque, ragazzi, la cosa importante, fondamentale, è stravolgere in questa trasmissione lo stato di diritto. Questa è la cosa importante. La cosa importante, stravolgere le regole, sempre. La cosa importante e fondamentale è che è tornato Berlusconi, ragazzi miei. Io sono entusiasta di queste cose qui. È stato accusato subito di razzismo, naturalmente di battute sgradevoli, di scopatori africani. Ha fatto una battuta sui bidet, che o se è quella che tu ti riferisci. Amico ha mio. Fatto una battuta sui bidet, amico mio, che poteva risparmiarsi. Ma che poteva risparmiare. Quando fa così è il numero. Quando parla di politica, comunque dice, spiega esattamente di cosa parliamo. Sì, no, ma adesso mando in onda, faccio sentire tutto. Però quando faccio sentire tutto. Ma cosa fai sentire? Berlusconi a Ischia. Io odio questa frase. Ora facciamo risentire tutto. Ma cosa fai risentire? Sentire, poi avremo, ma chiudi. Vi annuncio che avremo grandi novità sul caso Asia Argento, grandissime novità sul caso Asia Argento, con uno Sgarbi strepitoso che ho sentito prima per telefono, che mi racconta nei dettagli quello che gli ha detto il signor Morgan, parola per parola, contro la versione di Asia Argento. Ma questa è un'altra partita. Andiamo ma su cosa Berlusconi. Fai origli alle porte ma della non gente, mi interessa, ma cosa ma fai? È una cosa che lavoro fai tu, origli? Mi perché racconta delle cose che il l'ex marito di ma Asia mi avrebbe detto. Ma tu che cosa fai, origli? Ma tu che fai, il pastaio? Ma che fai, sì, tu? Cosa? Il coso? So. Che fai di mestiere? Non so più cosa pulisci faccio, gli orinatoi? Io. Che fai? No. Con tutto il rispetto, quello, chi li pulisce? Quello lo dovrebbero fare le persone condannate per razzismo. Quello. Allora, Berlusconi, quando fa queste battute è il numero uno. Quando parla di politica rispetta sempre le stesse cose. È noioso quasi. Berlusconi, i bidet e Gheddafi, stupendo. Allora io vado con Gheddafi e con i suoi architetti a vedere i centri di accoglienza, su cui avevo ottenuto che ci fossero i caschi blu dell'ONU a garantire le condizioni umanitarie. Vedo i bagni, mi ricordo ancora il numero, 32 per ciascuno, guardo dentro i bagni, non c'è il bidet. Allora dico, ma non c'è il bidet, bisogna metterlo. Gheddafi mi guarda e fa, cos'è il bidet? Guarda i suoi architetti e dice, cos'è il bidet? Allora dico, non preoccupatevi, datemi questo spazio come il vaso, uguale. Bidet ce li metto io, perché avrò l'orgoglio di aver insegnato a questi scopatori di africani che esistono anche i preliminari. La signora Carfagni in prima fila si è scandalizzata, quindi ho colto nel segno. Devo dire che la parte finale non era male, quella sulla Carfagna. Però io ci ho messo un po' a capire. Era imbarazzata, ma lo sai, secondo me. Ma chi se ne frega, va benissimo lo stesso. Giustamente, ma che è imbarazzata, giustamente. Ma questo è il vero Berlusconi. Ma questo è il vero Berlusconi. Carfagna era giustamente. Ma questo è il vero Berlusconi, non quello di. È sfuggito, ogni tanto gli parte la frizione al Berlusca, però bentornato tra noi. Insomma, allora, bene. Ragazzi, io lo sai che ci ho messo qualche secondo a capire? Cioè, ho insegnato agli scopatori africani a fare i preliminari mettendo il bidet. Ci ho messo qualche secondo, spiegatemi, cioè, qual è la vostra interpretazione? Dico, tu l'hai capita? L'hai capita fino in fondo? Mi sembra di capire che sì, certo, ecco, prima di fare l'atto sessuale ti fai un po' di igiene intima, oppure la doppia volgarità che ha detto potrebbe essere che ti fai fare l'igiene intima dalla persona con la quale poi ti e dunque i preliminari avrai no, cosiddetto amplesso. Guarda, non è così chiaro, io ho capito così, letta così è mi faccio fare i preliminari mentre mi fa il bidet. orribile, questo però è uno schifo. Chiudi qua. Ma è che una, è uno veramente... schifo? Ma quando mai è già mettersi, dove mi trascini? Già mettersi qui a discutere di che interpretazione, di che cosa vuol dire il bidet. Sei una persona. Scusa, orribile, ma meglio questo, ma meglio questo che quando dice che bisogna difendere i diritti degli animali? Questo ha detto sempre Ischia Berlusconi, bisogna difendere i diritti degli animali? Difendere i diritti degli animali? Dentro l'albero della libertà ho aggiunto ai punti del nostro programma anche i nostri amici animali, perché una famiglia su due possiede un animale da affezione. Allora? Tra coloro che non vanno a votare moltissimi hanno degli animali, allora credo che sia giusto finalmente riconoscere che gli animali sono esseri senzienti, che sentono il dolore, che sanno cos'è la commozione e quindi intervenire per difendere i loro diritti. Ma quali diritti? Ma quali diritti? A Berlusconi è già più non lucido, te ne frega però un cazzo degli animali. È una questione solo puramente di numeri. Ma elettorale. Sì, ma dai, su, senzienti, introdurre nella Costituzione tutte cose brambiliane. Ma questo è vero Berlusconi, è quello che racconta del bidet, degli scopatori africani e della fregna. Non i diritti degli animali, gli esseri senzienti. Poi dice di... non so perché ce l'ha con Trump. Lui non ha grandi rapporti con Trump. No. Ammiriamo solo moglie e figlia di Trump. Questo l'aveva già detto. E tutte cose ripetute mille volte. Sapete che siamo in una crisi di leadership nel mondo che è incredibile. Incredibile. Adesso c'è questo signor Trump, di cui tutti noi ammiriamo la moglie e la figlia, naturalmente. Come sapete, un cinquantenne a Torino in un mercato è stato ucciso, sgozzato da un nigeriano, caro Parenzo, da un nigeriano. Perché dici con soddisfazione caro Parenzo? E cosa, vabbè, cosa vuol dire caro Parenzo? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Abbiamo capito, abbiamo visto la cosa. Mandateli le telecamere, mandateli le telecamere, fate la diretta, ricostruite tutto. Nino mi scrive: peccato che ne ha fatto fuori uno solo di ladro, riferito all'avvocato di Latina. Sì, peccato, condivido al 100%. Ma... fermi tutti. Parenzio Bigotto! Parenzo! Assumi la rom. One zaba, two zaba, three zaba hita, four zaba, five zaba, six zaba hita, seven zaba, eight zaba, nine zaba hita, four zaba hita. One zaba, two zaba, three zaba hita, four zaba, five zaba, six zaba hita, seven zaba, eight zaba, nine zaba hita, four zaba hita. Assumila Parenzo. La zanzara. Vai giù, se volete parlare al telefono con la zanzara da fa l'800240024 oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701, oppure se volete lasciare un facile messaggio in coppa WhatsApp 71 71 70. Ragazzi, si capisce un cazzo quando parlate in napoletano, un coppa facile messaggio è proprio un'altra lingua, non si capisce una sega, cioè in tutta Italia non vi capisce, siete alienati nella vostra cazzo di regioncina, poi vi lamentate che tutti contro, non si capisce un cazzo neanche quando parlate. È normale che uno quando guarda Gomorra come in Narcos deve avere i sottotitoli perché non si capisce una sega. Ma parlate normale, figa, almeno usate delle parole normali, tenetevi quell'accento tutto fastidioso. Ehi, frate, gumbo, che cosa, ehi? Te capì? Testina. Allora, arrivano altri particolari su quello che è avvenuto a Latina, caro David. E vediamo se questa cosa ti smuove un po', se questi altri dettagli... Ma no, ma in realtà vanno nella direzione che dici tu. Io rimango dalla mia idea che uno può sparare comunque. Io so, da quello che ho letto in queste ore, dalle agenzie, dalle note che mi sono arrivate, inviati sul posto, mi risulta che l'avvocato è andato nell'appartamento del padre dopo l'allarme, si è portato la pistola, non è che gira sempre con la pistola, si è portata la pistola. L'è portata con sé, ha fatto fuoco, dicono le mie fonti, almeno 6-8 volte. 8 volte, sì, 8 volte. Non lo so, appunto, otto ti dico, colpi, mi hanno colpi scritto tipo 6-8 volte e hanno colpito il bandito alle spalle. Poi alla c'è schiena, stato un sì, nuovo alla schiena. E poi c'è stato un nuovo inseguimento. Queste le mie allora, fonti senti, sul senti. Posto. Allora, l'avvocato... Dopodiché, e quindi confermi. L'avvocato quindi, insomma... era fuori dalla palazzina, ha ricevuto tre allarmi di intrusione in casa del padre. Una volta arrivato si è messo a discutere con il palo, ha capito che era il palo perché aveva alle spalle una scala che portava all'abitazione del padre, ha iniziato a discutere sempre col palo, cioè col ladro evidentemente. Nel frattempo gli altri due sono usciti e sono scesi dalla scala. Quando il secondo ha toccato terra, l'altro ancora appeso alla scala ha messo la mano in tasca. Lui ha pensato che stesse prendendo un'arma, ha sparato 8 colpi ed è stato colpito con 2 proiettili alla schiena. Senti, a me devo dirti la verità, di tutti questi dettagli un po' non me ne frega un cazzo. Nel senso, stavano a sono casa di altri, stavano a casa di altri. Ma sì, va bene, ma stavano a casa di altri. Ma neanche, ma non sei nel stavano Texas. Stavano a casa di altri. Ma non sei ma che in ne Texas. Sai che cosa possono sei fare tre ladri? Non sei nel Texas, ma che capito? Il Texas, dai, su, mamma mia che sei. A proposito di Asia Argento, c'è una cosa che mi ha colpito dei racconti di questi giorni della signora Asia Argento, ed è questo. Allora, la stessa Asia Argento che dice: io sono stata zitta per proteggere la mia carriera. Così ha detto, zitta per proteggere la carriera. E quelle che non ci stanno, allora? Quelle che non si fanno scopare o non accettano il cosiddetto ricatto sessuale? Ma di che parliamo? Dai, su quelle che sono più stupide? Quelle che sono, dai, su. Poi c'è un'altra cosa, dice di essere stata abusata anche a 16 anni da un regista italiano che l'ha ricevuta in una roulotte, col pisello in mano, con il pene in mano, ti giuro, così dice, Faccia fuori il nome. No, perché non dice il nome di questo regista italiano che ha tirato fuori l'uccello davanti a lei nella roulotte? Perché non lo dice? Perché sempre queste cose lasciate lì a metà? Faccia il nome di questo regista italiano, regista barra attore. Ci sono varie ipotesi, adesso non le facciamo, se no ci fanno un culo così, ci querelano. Però la realtà è questa, faccia il nome. A 16 anni un regista attore mi ha ricevuto nella sua roulotte col pisello in mano, col pene in mano. Bene, benissimo, sicuramente un maiale, un porco, faccia il nome. Faccia il nome. Cioè, qual è il problema? Faccia che rischia, cosa rischia? Dai. Allora, Antonio da Lecce, vai Antonio. Pronto. Cruciani, secondo me, non sta istigando le persone ad usare le armi senza senso. È ridicola la tua posizione, la vostra posizione. Qual è? La vostra posizione di che? La mia posizione, quella di Davide? Sulle armi è ridicola. Non si può ammazzare una persona per un furto. Per un furto? Sì, come non si può? Come non si può? Non si ma può, che vuol dire? Ma intervenire i carabinieri cose che magari intervengono dopo un'ora intanto quando quelli se ne sono andati. Devono essere le persone a difendersi, ma deve essere lo Stato, i carabinieri. In America muoiono 30.000 persone con le ragazzi, armi. Ragazzi, inutile, non vi fate fottere da queste cose qua. Negli Stati Uniti ci sono molte più persone che si salvano, persone che si salvano per il possesso delle armi di quante non ne muoiono. Allora io, non vi fate fottere da questi dati che diffondono allarmisti, 30.000 persone morte, certo, io non so usare ma quante un'arma. Sono quelle che si salvano perché uno ha l'arma in mano? L'avvocato è stato in gamba ad usare l'arma. Io che non so usare un'arma, di fronte ai banditi perdo. Quindi non è indicato indicare ai cittadini l'utilizzo delle armi. Le armi le devono usare le forze dell'ordine delegate a difendermi. Io le pago le forze dell'ordine. Lasciamo perdere le cretinaggini di Parenzo. Antonio, cosa c'entrano le forze dell'ordine in questo caso? Mi questo devono qua. Difendere le ma forze cosa dell'ordine. C'entra? Ma non ci può ma essere certo. Mica un carabiniere ogni casa. Ma cosa come dite? Io me ne vado, se stanno rubando a casa mia, me ne frego un cazzo. Non è, magari ci sono delle persone che sono entrate. Ma che faccio? Ma scusa, infatti tu non sei obbligato a farlo. Quelli che però hanno un'arma in mano e lo fanno devono essere protetti dallo Stato. Che lo Stato non ma... già l'utilizzo delle armi. Se tu vai a sparare a una persona e sta rubando una pagnotta, deve essere denunciata per furto di pagnotta. Ma che ne sai, scusa Antonio, di quello che volevano fare questi tre? Magari io uccido a prescindere. Ma chi non ha detto? Riuscirai. Io ti ammiro Parenzo, ma non riesci Parenzo e Cruciani, ma non riesci a convincere nessuno. Non lo so che cazzo ti dire nella testa, cosa ti gira. Tra le tante sono runners come te. Non le so come fai a pensare una minchia del genere. Io adesso non capisco perché dovete ricostruire la dinamica dei fatti, cosa che dovrà fare la magistratura, e ve la prendete col fatto che l'atto dovuto di un signore avvocato che consapevolmente ha sparato a un criminale che è entrato in casa sua, il criminale muore, e adesso voi ve la prendete pure con la magistratura perché semplicemente ha fatto quel che doveva fare. Ma cioè, io non siete, sono d'accordo a nessun intervento, nessuno deve usare le armi. Siete non vergognosi. A meno che non ci sono in pericolo di morte. Nessuno deve usare le armi. Su questo, a meno che lei io non perfettamente sono in pericolo ragione. Se io sto vicino a casa mia una persona Antonio, ho capito, ha fatto benissimo a sparare. Secondo me se avesse sparato pure gli altri due, l'avesse fatto fuori, non ci sarebbe stato nulla di strano. Paolo da Padova. Ma infatti verrà assolto da tutto. Cosa c'è? Cosa dici? Vediamo. Paolo da Padova, vai Paolo. Sì, buonasera, signor Cruciani. Vai, dimmi veloce, dai ragazzo, buonasera sì. Un cazzo, dai. Va bene, che buonasera. Cazzo, dai. Buonasera, no, ma che buonasera, ancora sentire, con buonasera. A sentire questo da Lecce che parlava, sì. Io non lo so, ma io vorrei vedere se entra a casa sua e trova di notte sua figlia. Ancora. Cioè, no, appunto, volevo capire un attimino. Cosa vuol l'uso dire? Delle armi è legittimo, uno viene a casa mia, io gli sparo, perché è inutile. Cioè, certo. Ma nessuno, ma si può fare, infatti, esiste la legittima difesa. Ancora non è che riapriamo ancora la discussione. Scusi, esiste la legittima difesa, esiste già. Cornuto! Non va come cornuto? Che vuol dire? È un cornuto, ma perché cornuto? Cornuto? Modo di dire ma perché cornuto? Un cornuto? Ma tanto a voi vi piace lì alla zanzara, quell'ambiente lì. Cornuto, lei è un gran coglione. No, ma lasci stare, a Cruciani piace, a voi piace essere cornuti. Sì, vabbè. A voi piace, che vi devo dire? Quindi a voi non piace. Ma magari a Paolo non piace essere cornuto. Siccome la zanzara non è un mondo normale, la zanzara non è un contesto normale, è il mondo al contrario. Allora, nel mondo al contrario, a voi darvi del cornuto vi rende orgogliosi. Nel mio mondo cornuto è brutto perché ti dispiace la tua fidanzata, tua moglie, trovarla a letto con uno dei tuoi amici. Invece no. A te non te ne frega niente. Quindi il fatto che io vi abbia dato a te a quest'altro me non me ne frega cornuti, niente. No, siete due cornuti. Ma quello che per ne sai? Me... Ma Paolo, che ne sai? Paolo, ma scusa, sarà cornuto se scopano, anche lui, se ti scopano la moglie, sei contento ma se tu? Se telefona alla radio, figura la zanzara, se felice magari sì, bravo Paolo, contrario. Paolo Sirina GR. Zanzarosi, giornata difficile, chiamate all'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701, scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Ah, e quindi Natania ti guarderebbe male dicendo: cos'è questa storia che vuoi portarmi la zingara a casa? David, assumi la Rom immediatamente, non fare il razzista, David, assumi la Rom. Allora, io sto ascoltando la trasmissione di ieri, 12 ottobre, e i primi minuti mi sento Parenzo che si nasconde dietro la moglie per non assumere la Rom. Parenzo, assumi la Rom e basta, porca puttana. Parenzo assumi la Rom, Parenzo assumi la Rom, Parenzo assumi la Rom, Parenzo assumi la Rom, italiani! Ragazzi, abbiamo superato quota 4.500 nella grande petizione popolare. Ma che è anche un po' radicale, se volete. Non è radicale per niente, una petizione che non ha alcun tipo di valore, perché ho scoperto, fatto delle indagini. Ma quali indagini? Ho fatto delle indagini con Gelsomino, con un mio investigatore privato, e ho scoperto, per una cosa vera, che tu puoi votare da diversi account. Ma sì, ma chi sei adesso, Grillo? Sì. No, i 5 Stelle, puoi che votare sei? Da account è una trof. Ma chi è che gestisce? È una trof, ma una cosa incredibile. Io, a parte che ho sempre rifiutato le cose uno vale uno, le cose online, come sai, non è che lo rifiuto adesso perché mi riguarda. Per me però, sì, se però, si arrivasse, ragazzi, attento, dimmi. E qui poi chiudo, sì, fermiamoci. Sì, sì. Se si arrivasse, attenzione, direttore Gentili, attenzione, radio, se si arrivasse a 1.000.000, no, attenti. Se si arrivasse a 1.000.000 potrei offrire un part time. No, attenti, ma che 1.000.000? Devi dire 10.000. Se si arrivasse a 1.000.000, devi dire 10.000, che è 1.000.000. Voglio le firme. Abbassa la quota, che è 1.000.000. Se si arrivasse sì, a 1.000.000, sì, posso valutare l'ipotesi di offrire, ragazzi, un part time certificato. Ragazzi, oltre, io ho detto, ho fissato un paletto. Questa petizione che potete firmare, sai, ma firmatela solo una volta. Dove, 10, sì, me lo devo mettere in quel posto. D'accordo. No, non mi permetto, sì, io non parlo così. Dove lo puoi fissare, ragazzi, detto, il tuo paletto, ragazzi, sai dove? La questione è molto semplice. Firmate change.org, Parenzo assumi la Rom, ormai fa il giro anche di tutti i mercati, è diventato praticamente un nuovo siete slogan importante. Superiamo siete quota 10.000 e il signore qui presente, esponente di Maggioranza Silenziosa, di Sinistra Organizzata, Buonismo Mondiale, cose pro Rom, sarà obbligato dalla sua coscienza ad assumere anche solo per qualche ora, per qualche settimana, la Rom in casa. La signora Sabaeta, fermi tutti, fermi. Vittorio! Eccolo! Come stai? Insomma, sono di pessimo umore. Che è successo? Come mai? Perché siamo in balia dei vandali, dei barbari, degli incapaci, degli idioti, dei... Ma in che campo? Dove? Cosa stanno buttando giù la palazzina, che è un edificio del 1930. Sì. A via Ticino 3, se puoi chiamare. Via Ticino dove? L'appello a Roma. Via Ticino 3 a Roma, tu vedrai una palazzina di periferia con dei balconcini fatta da un architetto che si chiama Ridolfi, presidente delle Logge degli Architetti, che io spero venga fulminato e che vada alle fiamme dell'inferno. Un poveraccio privo di sensibilità e di gusto, infatti, presidente delle Logge degli Architetti. Ho denunciato a Pignatone e spero che agisca, ma intanto sono già lì che lo sta buttando giù con le ruspe. Ma per fare cosa? Momento, al posto di questo? Per fare una palazzina, te l'ho detto, per fare una palazzina nuova, disgustosa, la periferia di luogo degradato. Solita speculazione. Sì. Cioè, ragazzi, vi dovete mettere in testa che l'Italia è un paese dove le cose degli anni 20, 30 e ancora prima vanno mantenute. Ma che faresti tu a questi architetti qua? È depresso per l'edificio abbattuto. No, ma fa bene a deprimersi per queste cose, no, qua. Io lo so. Io non mi deprimo perché ho meno sensibilità da questo punto di vista. Tu te ne freghi di qualunque cosa. No, io per esempio ho un palazzo, come sai, ho un palazzo storico che è quello che di casa mia, no, via del Governo Vecchio. Sei proprietario. Mia madre è proprietario. Palazzo incredibile, pazzesco. Faceva il teatro Mussolini, ci andava Mussolini e Re a fare il teatro negli anni 30, che stai scherzando? Sì, lì andavano Mussolini e Re. Ecco da dove hai imparato tu. Senti Vittorio, tu però mi devi rivelare una cosa, che cosa ti ha detto effettivamente il signor Morgan a proposito di Sargento? Ha detto che sua moglie era assolutamente in buoni rapporti con questo Weinstein, maiale, sì, che lui andava a trovarla e lei non lo riceveva talvolta e sì, che non gli ha mai detto assolutamente niente. In questa vicenda le fotografie di lei con lui sono una denuncia, perché non è che vai in giro col tuo stupratore, quindi lo stupro è stato accettato per convenienza. Una persona che certo non denuncia oggi vuole denunciare anche vent'anni fa. Ma sì, ma ragazzi, c'è la convenienza, ma è lei stessa che lo dice. C'è io non ho denunciato, psicologica, scusami, nei confronti ci può del essere, proprio, sì, ci può essere sudditanza, ma quando tu dici adesso io non l'ho denunciato perché temevo per la mia carriera, hai confessato praticamente. Cioè, hai confessato che è più importante la carriera della dignità. Ma no, ma rimane il fatto. Scusa Vittorio, non ho ragione io. Il fatto non c'è, perché se tu accetti quella che chiami violenza non è più violenza, la violenza ti respinge, ti dai uno schiaffo e vai via, esci. Per lei è stata una violenza, cioè, l'opportunità delle circostanze, altrimenti è vero. Però ragazzi, scusatemi, c'è violenza e violenza, cioè, c'è la violenza, ma non esiste brutale, in questo caso l'uomo che ti ferma, ti blocca le mani, violenza, ti blocca le gambe, ti sale addosso e ti fa quella violenza inaudita, e poi c'è l'altra violenza che è psicologica, che poi dire? Porta alla violenza sessuale, che è un altro tipo di violenza ma brutale, tanto quanto accettato per violenta anni, e dici esplicitamente che non hai denunciato perché temevi per la carriera. È evidente che hai fatto uno scambio, la carriera in cambio di un po' di sesso col porco. Scusa. Ma forse neanche, io credo che sia stato lui violentato da lei. Addirittura? Ah sì, ho la sensazione, da quello che dice Morgan, lei lo respingeva, non lo riceveva quando arrivava a trovarla a casa, lui mandava fiori, cioè lui era innamorato e lei lo respingeva. Ma ci sono le foto di queste qua, di queste donne che adesso denunciano questo Weinstein, sorridenti al loro fianco, compresa il sargento. Se questo qua è un aguzzino, vuol dire che non c'era nessuna violenza. Ma non c'è uno che ti violenta, non ridi con lui. Scusami Vittorio, ma Morgan ti ha detto solo questo? Lui pensa che la sua... No, mi ha detto esattamente l'opposto di quello che dice lei, che lei era soddisfatta, contenta, e lui le piaceva e lei lo respingeva. Quindi la verità di Morgan è esattamente l'opposto, che non ha mai percepito nessun lamento, che anzi lei dal punto di vista della, diciamo, prestazione era particolarmente soddisfatta. Perché dobbiamo credere a lei e non a lui, per esempio? C'è la possibilità di denunciarlo. Non eravamo negli anni 30, negli anni 40, ma nel 97. Appunto. Nel 97 se vai dalla polizia e denunci Weinstein non vai hai in galera. Vai in galera e tu non hai quella parte, magari. Ma insomma, di che stiamo parlando, ragazzi? È veramente una follia. Cioè, il tema è questo: perché questa ragazza ha raccontato questa storia? Sì. Il racconto è un racconto che serve a renderla un'eroina. Lei, probabilmente, ed è questo che la rimprovera Morgan, in un momento in cui non aveva un'altra ragione per fare attività di produzione di film, ha pensato che la denuncia la rendeva eroica, la rendeva. Sì. Infatti, non penso sia questo voto, assolutamente. E allora perché l'ha fatto? Perché non l'ha perché fatto? Perché evidentemente nel 99. Sono quei traumi che a ma un certo punto ti escono. Ma non c'è nessun trauma. Secondo Morgan non ha nessun trauma, c'era lui, per come lei trattava lui. Morgan è stato trattato malissimo. Io ho capito da lei. Che evidentemente le sembra giusto essere dura con i maschi, però uno può essere duro con i maschi quando dice a un maschio no. Se gli dici sì, non è che dopo 20 anni sì diventa no. Io sto al fatto, Hollywood ha preso una decisione durissima nei Hollywood, suoi confronti. Ma che vuol dire Hollywood? L'hanno escluso dagli Oscar. Ma l'hanno bandito dagli Oscar e quindi senti, vuol dire che l'ipocrisia di questi qua che per 20 anni sapevano tutti e solo adesso lo cacciano dall'Oscar è veramente patetica. Ecco, non è che tutto l'altro. Quello che viene dall'America, da Hollywood, l'altro. È un bene. Fare il pianto quando hai avuto tutti i vantaggi certamente mostrerà anche una verità, però tu intanto hai goduto tutti i vantaggi. Certo. Cioè. Quindi sei complice, se lui è uno stupratore lei è la sua complice. E poi intendiamoci, che cosa è uno stupro? Intendiamoci bene. Beh, adesso che fai, cosa fai? Quello che è certo, da quello che dice Morgan, non è uno stupro, perché lei era totalmente consenziente. Però lo dovete chiedere a lui. È un dout des, è un dout des. Ma dipende cosa vuol dire in quel caso essere consenzienti. Nel 97, siamo nel 97, non siamo negli anni 30. Uno può nel 600, vi ricordo, Artemisia Gentileschi denunciò il suo stupratore. Nel 600, ora se lo poteva fare nel 600, Asia Argento non è che per questo ne ha avuto danno, anzi avrebbe avuto ancora più gloria, è che vigliacamente ha ritenuto che dovesse trarre beneficio da quello che stava facendo. Ma l'ha detto anche lei. E l'ha denunciato. Ma l'ha detto anche lei esplicitamente. Ha detto, possiamo ha detto semplicemente dire che siamo pari e patta. Adesso lo denuncia, quando era potente no. Comunque è un atto di vigliaccheria. Comunque tu credi a Morgan al 100%? Al 100%, perché purtroppo non posso dirvelo, perché è una cosa che mi piacerebbe molto, ma io ho avuto anche dei dettagli della addirittura lavoro, cioè dettagli della relazione Weinstein esattamente in cui risulta che lei sia invece dominatrice e lui dominato addirittura. Rapporti Stato-Naso esistono, non è che adesso abbiamo che Parenzo inventa che c'è un unico modo di avere rapporti, quindi è una verità opposta. Comunque le donne devono essere caste, devono assumere la castità come atteggiamento. Perché? E invece, perché è meglio, così non disturbano, no? Perché se poi non sono caste, fanno quello che vogliono e poi si pentano, è troppa roba. A me interessa la sessualità di Parenzo. Lo so, quello... Che quella rimane, come dire, appartiene all'intimo. Interroga sua moglie. Che lui è stato preso e violentato da sua moglie. Beh, questo non è male. Parenzo dirà, mia moglie mi ha preso con la violenza, non l'avevo mai detto, ho sofferto tanto, e adesso caro Crociani, fammi piangere sulla tua spalla, sono stato preso dalla violenza. Cornuti, siete dei cornuti. Quando è finita la zanzara mi devo confessare, quello che mi vergognavo di confessarlo, sono stato violato, che me lo immagino. Ciao Vittorio. Allora, ragazzi, ciao. Arrivederci. Assumila Parenzo. Naturalmente. Pronto? Signor Di Battista? Sì. Buonasera, mi chiamo Cruciani. La disturbo? Cruciani, se la prende nel culo lei e la radio 24. E perché me la piglio nel culo, scusi? Cruciani, quello che ti propone il padre di Di Battista ti potrebbe anche piacere. Ah sì, perché in realtà nella frase del signor Di Battista, caro Parenzo, c'è anche una certa omofobia, no? Se tu vai a vedere, sì, certo. C'è una repulsione tipica omofobia fascista. Sì, se certo. La prenda nel culo, come se prenderlo sì. Nel culo fosse di per sé, a te non piace, lo so, naturalmente, di per sé è una cosa negativa, no? C'è una cosa obbligatoria. No, ma lo dice con disprezzo, con fascistico disprezzo, possiamo dire così, addirittura. Usando un neologismo. Comunque, comunque non mi stupisce. Lo sai che i signori di Forza Nuova vogliono confermare in realtà la marcia su Roma, quella del 28 ottobre, vorrebbero confermare questa parata. Me lo auguro che lo facciano, facciano, così mettiamo fine a questo scempio definitivamente. Così quel giorno ci presenteremo lì, ovviamente con le forze dell'ordine, ovviamente con le forze fare di polizia. Tu dici un'occasione per fare la grande retata. Dici, guarda, no? Io quella settimana, come sai, me ne vado in America, me ne vado a New York, nella patria della libertà, poi racconteremo dove vado, allora? Chi incontrerò, Soros, eccetera. Dunque? Ma insomma, però sicuramente le forze dell'ordine che sono qui sanno già cosa devono fare. Manifestazione vietata, adunata sediziosa, non ci sarà alcun corteo. Qualora loro provassero anche solo ad assemblarsi lì, a mettersi in circolo, allora? In una piazza pubblica, arriva la polizia, nome, cognome, identificazione, portati in questura a bordo di quelle camionette, portati in questura, identificati, qualcuno può essere trattenuto anche in questura. Ragazzi, ma lascia la sfilare, notte, ma che può ti essere prega. Trattenuto la notte in ma questura, perché prega. Secondo me qualcuno di loro ha precedenti penali sicuramente, qualcuno di loro di Forza Nuova ha precedenti penali. No, di ma sicuro. Ma lasciali questo. Sfilare, io ma farei che ti una prega. Verifica. Io farei qualche vabbè. Verifica allora, anche ragazzi, sui precedenti. Simone penali. Da Varese, vai Simone. Ciao ragazzi. Dimmi. Allora, io vorrei fare la solidarietà all'avvocato. Sì, vabbè, non c'è bisogno adesso la solidarietà all'avvocato, ecco. Quello che ha sparato e ha ammazzato il rapinatore. Sì. Allora? Io sono cresciuto, mio padre ha sempre avuto armi per tiro sportivo. Sono cresciuto con le armi, mio padre mi ha sempre educato al rispetto dell'arma e tutto. Fino a quando un paio d'anni fa casa nostra è stata violata e abbiamo subito un furto di attrezzature da lavoro. Vabbè, dunque? E dico, vedere mio padre di 55 anni piangere perché i sacrifici di una vita in un attimo sono andati via, questo ti fa capire che se potessi tornare indietro io sparerei e non me ne fregherebbe un cazzo. Dunque? Ha fatto benissimo, dunque, dice. Avrebbe dovuto sparare pure agli altri. Sì, appunto, perché i tutori della legge... Ma da dove stai chiamando? Non da Varese, dall'Alaska. Da dove stai chiamando? Non ho capito. No, sono in macchina, sto tornando da lavoro. Una cosa incredibile, sembra tutto distorto, sembra tutto lontano, come se fossi, non lo so, in Arabia Saudita. No, sono sulla 50 adesso. Sulla 50, vabbè. Ciao, sì. Francesco, Roma, ciao. Vai. Ciao. Francesco? Sì, ciao. Dai, dimmi. E niente, io volevo stigmatizzare semplicemente quello che ha detto Berlusconi riguardo a stigmatizzare Berlusconi, perché stigmatizzare Berlusconi che vuol dire puntualizzare qui non si puntualizza, qui si va dritti, non si puntualizza. Beh, cosa vuoi dire, dimmi, vai veloce. Semplicemente in merito a Berlusconi e ai bidet. Ah, che c'è, allora, bidet, sì. Premetto ragazzi, che, ma sono tutte minchiate. Ma voi credete veramente a questa storia di Berlusconi, di Bidet, di Gheddafi? No, ma sai che è molto verosimile, ma sì, ma è una cosa è che molto non è mai verosimile. Ma non è mai successa poi nella realtà, io, quella ho roba ho lì. Ho visto semplicemente il video, siccome tra l'altro io sono un nativo della Libia e sono venuto via l'anno quando Gheddafi ci mandò via. Ti posso garantire che in Libia già nel 1970, anzi negli anni 60, c'erano già i bidet, e quindi Gheddafi sapeva che c'era, che cosa erano i bidet. Capito? Quindi a me comunque il fatto di stigmatizzare, come ti ho detto, è semplicemente per esprimere che non mi meraviglio delle gag di Berlusconi, le stesse allora... che dice Berlusconi siamo abituati. Quello che mi rattrista profondamente è tutta la gente che lo ha applaudito in quella circostanza. Ma ragazzi, ma è Berlusconi, ma anzi, quando fa queste cose al top, quando parla di politica dice sempre le stesse cose, però adesso cani, si è fissato con gli animali. Dico, ma a me non piace, ma a me piace, piaceva Berlusconi, ormai che mi deve piacere ormai, Giuseppe dalla provincia di Ancona. Giuseppe dalla provincia di Ancona, dai. Sì. Pronto Giuseppe. Dimmi. Volevo dire lì all'amico tuo Parenzio, sì. Ho capito bene o ha dato del cornuto pure a tutti gli ascoltatori di Radio 24? No, ecco, bravo, giusto per precisare, non agli ascoltatori, a chi chiama, quindi a lei, anche ecco. A lei indirettamente. Allora va ecco. A fanculo, te grazie. E chi te tiene. E chi te tiene in vita? No, ma scusa, aspetta, Giuseppe. No. Grazie. Torniamo un grazie attimo. Per il giudizio. Torniamo. Che so già verrà isolato da quel criminale di la corte, da Poli, da Longoni. Vedrai che isoleranno da domani. No, lo isoleranno, ma voglio capire quel una cosa. Audio. Allora, lo isoleranno, sti maledetti. Vedrai. Come si chiama questo qua dalla provincia di Ancona? Come si chiama? Giuseppe. Allora, Giuseppe mio. Io ho detto che è un cornuto. Chi ti ha dato? Cioè, non tu ti sei incazzato perché ti ha dato del cornuto? Questo è il punto. Sicuramente sì. Beh, ma io ho le prove. Di cosa hai le prove? Tu c'hai le cornuto. Prove. Tu c'hai le cornuto. Corna, non c'hai le prove. Ma no, che no, ho le prove che anche lei, è un cornuto, come tutti quelli sì. Che chiamano. Non davvero. Perché ragazzi, parliamoci chiaro, una persona normale non telefona in questa trasmissione. Ma che cazzo dici? Uno normale non, cazzate, non chiama, dai, non uno normale. Dai, non su. Chiama uno normale. Ma non dire stronzate, dai, su. Giuseppe, non ho capito, che cos'è che ti ha portato a fare questa telefonata? Qual è il moto di là? No, non ho più parole da parlare perché senti quella persona lì, ti giuro Beppe, guarda, sono stato qualche mese a ascoltare Radio 24 perché mi piaceva, lo ascoltavo sempre quando facevo il camionista. E ora per colpa mia non l'ascolta più? È per quello stronzo di Parenzo, ti giuro che non ti ascolterò più. Non ascolta. Ma come mai? Anche a me, spiegami, anche a me dispiace moltissimo. Tesoro mio, come mai? Perché una persona del genere, del genere, io non so come fare a tenerlo lì. Ma perché dici? Qual è il suo difetto? Offendi tutti scemi, tutti i quelli, tutto al contrario di tutto. Lui è il padre lerno di tutto, di tutta l'Italia, di tutto il mondo. No, ma ti ha dato semplicemente del cornuto, dai, qual è il problema? Sì, ma io potrei essere anche cornuto, però no, me lo potrebbe dire un'altra persona, lui me lo dovrebbe dire in faccia a me quella parola. E se te lo dice in faccia che succede? E succede, dopo lo vediamo. Che come succede? È successo a qualcuno quando facevo il camionista, non che è che me l'hanno detto, l'hanno fatti, sai, quelle vetture spavalde che ti sorpassavano perché il camion va piano. E allora? Quando l'ho preso a Brescia, per esempio, me l'ha tolto uno dalle mani la polizia. Perché? Ma semplicemente quindi perché lei è un violento. Ma semplicemente lei conferma perché che è un violento. La moglie sa cosa gli diceva? Cosa? Gli diceva: te lo dico sempre, io te lo dico sempre, non fare i corni alla gente. Ah, ma perché ti faceva le corna uno che ti ha superato? Vedi che è vero. Vedi che lo sanno tutti allora. E tu che hai fatto? Non ho capito. Tu che hai fatto quando ti facevano queste corna? Niente, quando l'ho raggiunto, gliel'ho preso un po' bello stomaco. Mamma mia, ma come mai? Ma che te frega uno che ti fa ma le corna? Ma si vede così? Che abbiamo colpito del segno. Ma che allora ti frega uno che ti fa le corna? Ma ti si frega? Vede che purtroppo ha un precedente. Giuseppe, a me è uno che mi fa le corna. Sono amici. È uno che conosco, no? Se uno che non conosci invece? Informato, no? No? Allora potrei pure accettarle. E invece? Ma da uno stronzo come questo lì, perché non so io il primo a dirtelo, mi sembra un po' tutti, non l'accetto. È difficile. A me piace questo marchigiano, questo dialetto marchigiano, questa inflessione. Ti piace, ciao, ciao. Mi telefonavo un po' se ne fa per il fatto della vecchietta lì. Che volevi della vecchietta? Che volevi dire? La vecchietta, perché inteso il Corriere delle Marche, è tutta una forbicia lì, perché lì non si poteva fabbricare, intanto c'era la vecchietta. Cioè, ce l'hai pure te con Giuseppina? No, non è Giuseppina, con chi ha fatto, perché Giuseppina non l'ha fatto quella casetta. Vabbè, ciao amico mio, con la famiglia ce l'hai. Ciao, ciao bello. Grande ritorno, un filosofo, tra parentesi, marxista alla Zanzara. Diego Fusaro con noi, buonasera, buonasera. Un caro saluto a voi da Diego Fusaro. Eccoci qui. Ecco, un caro saluto subito da David Parenzo. L'esordio però mi piace. No, ma è il suo marchio di fabbrica praticamente. Sì. Voglio farlo anch'io tutte le sere, però un caro saluto da David Parenzo. È una formula di cortesia che rivela affetto e cordialità. Certo, non io c'è voglio dubbio, dire però così, un caro saluto dal mondialista e globalista e liberista David Parenzo. No, ma dovresti inventarti un'altra cosa. Quella è un'autodichiarazione che può cagionare non pochi problemi, perché la gente comincia ad avvedersi di cosa sia realmente il mondialismo, e tuttavia lei è liberissimo di definirsi in tal guisa. Grazie. In tal guisa. Porca puttana! Allora, io voglio dire una cosa. Prima domanda al filosofo è questa. Il caso di attualità, partiamo da questo, Weinstein, Nasi Argento. Ora, bravo. Chi è che sfrutta? Cioè, è lei che sfrutta lui o lui, il maiale, porco, stupratore, ma che ne sa, eccetera? No, è importante. Ma che cioè, ne sa lui che questi studia rapporti Marx di forza nello spettacolo, no? Questi ecco rapporti nello spettacolo, come possono essere inquadrati da un filosofo? Ma qui parlo a nome di Diego Fusaro, quindi non di filosofia in generale. A mio modesto giudizio, in questo caso specifico, nella società dello spettacolo mondializzata hanno tratto giovamento entrambi, quindi si sono sfruttati entrambi, perché hanno avuto un ritorno di immagine e di visibilità che li ha posti al centro dell'attenzione. Perché potremmo dire in termini generali che a trarre giovamento da questa, peraltro incresciosa e lasciatemi dire anche poco interessante da un certo punto di vista, vicenda hanno tratto giovamento entrambi. Entrambi, ecco. Entrambi. Ma questa è la dimostrazione, come dire, anche della depravazione di questo mondo capitalista e della società dello spettacolo, oppure no? Certamente, Pasolini nel suo ultimo film Salò mostrò una scena epocale quando mostrò nella Villa degli Orrori il sistema della società dei consumi nichilistica che costringeva i suoi sudditi all'atto coprofagico, cioè a mangiare escrementi letteralmente, che è il gesto che la società dei consumi ci fa compiere ogni giorno e di più ci fa essere lieti e appagati di questo gesto di per sé indecente. E la vicenda che stiamo qui analizzando ne è in qualche modo un riverbero, perché è una scena che ovviamente meriterebbe semplicemente di essere trascurata, omessa e sicuramente non enfatizzata. Non c'entra niente il capitalismo. La rappresentazione ideologica che la società delle merci ci induce a fare, la reificazione che è connessa a questo mondo che ci induce sempre più tutto, a essere tutto il piacere, tutto è concentrato sul piacere, c'è il porco Weinstein che vuole cercare sesso e lei che cerca la carriera, diciamo. Cosa vuol dire? È una disgregazione in atto dell'etica familiare che invece è basata, come insegnava Hegel, sul riconoscimento reciproco delle due persone, nella fattispecie dei due coniugi. Qui invece prevale il libertinismo, che è la variante erotica del liberismo, dove si massimizza l'utile individuale, che in questo caso diventa il plus godimento erotico per l'individuo atomizzato, che è scisso da ogni comunità e pensa unicamente a sé e utilizza di più l'altro come semplice medium per la valorizzazione di sé. Mi sta scrivendo in questo momento un ascoltatore, Benedetto Sacerdoti, mi scrive reificazione, bellissimo dirlo alle 19:55. Questa frase sulla l'ultima frase di Fusario la isolerei perché è fondamentale. Fermi tutti. La Zanzara. Allora, sempre il filosofo Diego Fusaro alla Zanzara, dopo diverso tempo, caro Parenzo, molto apprezzato nei suoi interventi qui in questo luogo di perdizione. Diciamo che ogni tanto accende una fiammella di cultura, se così possiamo dire, no? In questo luogo di perdizione. Sono molto curioso di capire perché lui... Sì, mi dispiace perché lui demonizza il mercato, demonizza tutto ciò che invece è straordinaria modernità e che è straordinario. Ecco, perché pronuncia la parola Nuova York invece di New York ogni volta? Questo è curioso. Perché utilizza Nuova York? Penso addirittura che sia una bestemmia per lui utilizzare chiamare New York ma anzitutto parto da una pacata e sobria considerazione. Se noi andiamo a Nuova York scopriamo che loro non chiamano Roma Roma o Milano Milano, lo chiamano con i nomi americanizzati. Che non capisco perché anche noi non possiamo utilizzare i nomi italiani per le città straniere. È più complicato dire Nuova York. Nuova York suona anche lievemente, diciamo così, vintage, per usare una parola. Dunque tu consigli di utilizzare Nuova York? Consiglio di utilizzare, allora, la mia teoria contrapposta alla neolingua liberista è un ritorno a una veterolingua fusariana che prevede anzitutto l'uso sempre di parole italiane, quindi Nuova York anziché oppure? New York, oppure si può dire ancora ad esempio anziché social network la rete sociale, anziché ananas addirittura ananasso, io propongo di utilizzare ananasso invece di ananas. Ma chi vuol dire ananasso? Ma chi dice ananasso? E poi anche Ruggero Orlando mi suggeriscono utilizzare Nuova York. È una vita complicatissima, diventa secondo punto fondativo della mia teoria della veterolingua è l'impiego in compresenza di due termini sempre del più arcaico, quindi pronunziare anziché pronunciare, maraviglia anziché meraviglia, denunziare diventa difficile però pronunziare la parola pissing, ad esempio, diventa molto difficile pronunziare. Tendo a non pronunziarla in verità, appunto, anch'io la capisco, è totalmente intraducibile e la capisco. Una cosa che ho inventato io ex novo, ma non rivendico questa invenzione, perché in realtà già l'antico Sallustio nella congiura di Catilina Sallustio. Perché lei ha detto antico Sallusti, io dico Sallustio, l'autore della congiura di Catilina, utilizzava sempre la parola più arcaica, per cui diceva optimus anziché optimus, per rivendicare un'opposizione rispetto alla corruzione della modernità dei suoi tempi, cioè della contemporaneità. Ora, che egli il filosofo, aborriva. Benissimo, il filosofo marxista Fusaro utilizza per esempio il Viagra, le pilloline di questo tipo? Come l'hai mai utilizzato il Viagra tu, Diego? Ma dunque, no, non ho mai fatto ricorso a siffatta pratica, e tuttavia non demonizzo chi ecco, chi ma non è anche qui simbolo si tratta qui di criticare le persone. No, per carità, ma qui però è la tecne, la grande scienza globalista e mondialista che grazie a quella pillolina blu rende facili certi rapporti per gente magari come voi. Ecco, a cui appunto, non è un po' anche quello il simbolo della mondializzazione. Anche permettetemi di fare una citazione filmica in questo caso, da Matrix 1999, al cospetto della scelta tra pillola blu e pillola rossa, io ho scelto la pillola rossa, quella di chi vuole scoprire la verità scomoda del mondo falso. Bellissimo. Con manipolazione organizzata, forse riframmenterete quel passaggio. Sì, assolutamente, signor filosofo, secondo lei il pompino è sottomissione? Beh, in qualche modo se ne frega, no, è una forma di sottomissione della donna. Vi è un antico dissidio teorico che pone la domanda se si tratti di un peccato di golo o di lussuria, tutt'al ecco. più. E il filosofo come inquadra la fellazio, il pompino, nella sua, come dire, nel suo pantheon? Ma non se ne occupa. Dunque, io penso che l'amore abbia forme più sublimi rispetto a quelle puramente carnali, a cui talvolta il discorso pubblico sembra ridurlo, ma io mi ritengo un platonico in questo. Per platonico. Me l'amore è un gesto donativo, cioè, non scopi. Ma è un gesto donativo di incontro fra le anime, essenzialmente. Anch'io lo dico ogni tanto, però il gesto molto culminante è più, se volete, più basso di tutto il rapporto. Ah, più basso, Platone più basso. Lo dice più basso. Chiaramente. Platone lo pigliava anche in quel posto, però mi segnalava. No, adesso cosa dici? Platone è. Come dire, si parla sempre di Europa. Ripartiamo da Platone perché non si può essere europei senza aver letto appunto, Platone e Aristotele. Lo prendeva dietro a stantuffo. Ma non prendeva, cosa ne sai? Ma cosa dici? Cosa blasfemo sei con Platone? Allora io voglio capire una cosa. Non ne abbiamo testimonianza. Un'ultima cosa. Il filosofo Fusaro ammette le canne, cioè il farsi, l'ammazzarsi di canne, appunto è fumare le canne. Ma in un'epoca di liberalizzazione integrale dei costumi e dei consumi, io credo che resistere a queste forme di falsa ribellione sia un gesto fondamentale. Dunque niente canne. Oggi il vero rivoluzionario canne. Non è chi si fa le canne, ma chi legge Sallustio, Seneca, Sallustio ancora. Ma da quando a leggere Sallusti è rivoluzionario? Scusi, Sallusti, no, io parlo di Sallustio, cioè dell'autore della scontura. Sento di male sempre io. Grazie, mi sembrava strano. Saluti, arrivederci, professore. Un caro saluto da Diego Fusaro. Oggi sarò qui a Montecitorio. Se tutti avete coraggio, scendete a parlare con me. Diritti e doveri, 1.000 euro. Vergogna! E io vado con la tonnellata di vostri imputi. Ho strappato l'Inps. Ibrido. E sti cazzi. Ma chi critica chi fa pompini per lavoro è come se criticasse chi si sposa per soldi, per interesse. Ci vedo niente di male, sono contratti tra le persone e si regalano con i pompini. Nella vita bisognerebbe sempre mettersi nei panni degli altri per prima di dare valutazioni. E allora io mi chiedo cosa faremmo noi, la maggior parte di uomini, che se fossimo dei produttori cinematografici o qualunque altra posizione di potere, che ti passano avanti delle strafighe, non ci provi, e vigliacco che dice di no e censura quell'uomo, punto. Qui invece prevale il libertinismo, che è la variante erotica del liberismo, dove si massimizza l'utile individuale, che in questo caso diventa il plus godimento erotico per l'individuo atomizzato, che è scisso da ogni comunità e pensa unicamente a sé. Guarda, io ti denuncio, eh. Allora, Francesca da Milano, vai Francesca, dopo il filosofo marxista continua la zanzara imperterrita fino alle 9:10, ragazzi, fra poco un mio amico, un grandissimo artista qui con noi, caro Parenzo. Bene, molto bene. Non molto sai manco bene. Chi è, tu non ti informi mai, ma te lo dico fra poco, tra una decina di minuti. A cantare in diretta live, una delle mie canzoni preferite degli ultimi mesi. Vi dico solo che non è il signor Ruggero, ecco, questo ve lo voglio già anticipare. Il signor Ruggero dei Timidi, dici? Sì, esatto. Ruggero dei Timidi, un'altra cosa. Ruggero dei Timidi farà un grande spettacolo fra poco. Ci sarà tempo. Qui è un'altra persona, Francesca da Milano, vai. So che è eccezionale, una brava persona. Dimmi, ciao a tutti, buonasera. Allora, io lavoro in televisione, come accennavo poco fa al vostro centralino, sì. E volevo dire che è possibile dire di no e continuare a lavorare. A me è successo diverse volte di ricevere varie proposte o scene, sì. Ho detto di no, continuo comunque a lavorare in televisione. Certo, non sono diventata famosissima, va bene, sì. Ma si può fare questa cosa. Scusami Francesca, tu dici una cosa giusta, bisogna rivendicare in queste ore la posizione e Parenzo non lo fa abbastanza, perché appoggia gli amichetti suoi, magari la sergento è amica sua, conosce il padre, ma cosa c'entra? È denunciare una violenza una volta diventate ricche e famose. No, ma scusate, non vuol dire nulla. Io dico semplicemente che quello che si è scatenato nei confronti di Asia Argento, la campagna vergognosa che c'è in rete. Non c'è nessuna campagna. Hanno addirittura pubblicato la foto di quando lei dava provocatoriamente un bacio con la lingua in bocca a un cane. Per dire l'hanno sbattuta in prima pagina sul cosiddetto Il Giornale. Per dire una minchiata. Per dire una cosa vergognosa e cattiva. Un conto è quello libera. Che lei fa. Ma che ne sapete voi? Della sessualità di Asia Argento? Lo ha detto magari pure il signor semplicemente Morgan, quello che lei vuole trasmettere fuori, e invece è una velona al suo interno, nelle sue mura di casa. Ma una donna può accettare di questa moneta di scambio, chiamiamola cosa così c'entra? Però poi non vieni a fare l'anima pia e dire oh sì, ho subito questa violenza. Ma non ha fatto l'anima pia, non ha fatto l'anima pia manco per niente. Io questo lavoro lo faccio da 16 anni. Ma che lavoro fai? Scusami, Francesca. Io lavoro in televisione, faccio la modella, faccio un sacco di spot. Io sono in televisione tutte le settimane, faccio un sacco di dirette. Ma come ti chiami, scusa, Francesca? È Francesca Belussi, mi chiamo. Belussi? E a me... Belussi, B-E-L-U-S-S-I. Non Belussi. Sono famosa, ma faccio questo lavoro da tantissimo. Ma va è benissimo. Pieno di professioniste che non sono disposte a concedersi. Ha ragione Francesca, Francesca, cosa c'entra la cosa di Asia Argento? No, ma invece c'entra moltissimo, fa l'artista. Io mi ritengo bisogna rivendicare la posizione di quelle come Francesca che dicono di no, io la figa non ve la do, non vi faccio scopare, non vi faccio i pompini, perché di questo stiamo parlando, non me la faccio leccare per tornare alla vicenda. Ma che roba è? Sarà un po' crudo, ma è così. A me sono a parte che a mio parere è legittimo farlo, cioè io come sapete io ma se una persona decide di farlo assolutamente io penso che la donna possa tranquillamente utilizzare e sfruttare anche il proprio Asia corpo Argento, per fare carriera, ma evidentemente Asia Argento, che all'epoca era una giovanissima ragazza, non se l'è sentita e non c'è riuscita a dire di no. Ma che ne sa, vi ho spiegato che ci sono diversi tipi di violenze, ci sono diversi tipi. Non vieni stuprata. Ma lo stupro, lo stupro è banalmente una cosa, nella sua terribile efficienza, è quella cosa per cui un uomo o più uomini ti strappano, e la cronaca purtroppo lo ha raccontato. Ma questo che c'entra? Quella violenza anche c'è uno stupro che avviene, diciamo, non a livello consenziente, ma quasi accondiscendente, che è uno stupro psicologico, nel quale tu sei in uno stato di sudditanza e alla fine, nell'imbarazzo della situazione, banalmente gliela dai. Cioè, esempio, lei ha raccontato nella stanza di un albergo, e allora stai facendo c'è il cosiddetto stupro dei ricchi e lo stupro dei poveracci criminali. Sempre stupro è, ma avviene con logiche diverse. Se non lo capite, è così. Noi siamo limitati in una camera d'albergo. Io e Francesca siamo terra terra, siamo più terra terra. Non è che siete e voi siete dei maiali porci dietro il vetro, siete dei maiali porci maledetti, perché appena questa Francesca Belussi, come ti chiami? Sì, Belussi, ho visto, hanno cominciato a mandarmi foto naturalmente, sì, eccetera, ma questo è una strafiga, te lo dico io. Ma questo te lo dico io. senza aver avuto nessuno come amante. Sono sposata con una persona normalissima e continuo a fare questo lavoro. Quindi, ragazze, se volete fare questo lavoro, si può fare. Non bene, la dovete dare. Infatti, ma... Brava, brava, ma Francesca, brava. Oppure questo. La date e non rompete il cazzo. Questo. Oppure esatto, la date e non rompete non i coglioni. Cioè, la non è che, ragazzi, io tutte le donne che vogliono scopare per fare carriera, per me fanno benissimo. Non bene, benissimo. Eccola. No, ma io sono Eccola. Convinto, l'ho detto più volte, una volta sono andato pure alla Rai a dirlo, c'è stato un mezzo scandalo anni fa ad Agorà, ho detto che la società occidentale, nella società occidentale avanzata, una donna che la dà via per carriere, che utilizza il proprio corpo, le proprie tette, delle parti importanti del corpo, che il signore, o no, se uno non crede, non so chi le ha dato, fa bene, benissimo a farlo, benissimo. Naturalmente poi si arriva in un posto anche se uno, no, soprattutto se uno ha dei meriti, non solo perché ha delle belle tette, no? Giusto, Francesca, che dici tu? Ma certo, sicuramente sì, sono d'accordo con te su tutto quello che hai detto. Tu puoi accettare queste cose, ma poi non venire a dire oh, ho subito delle violenze. Ma perché violenze? Mi state per mandando favore, perché no. mi state mandando no. queste foto di questa ragazza continuamente? Siete veramente dei personaggi di poco. Cioè, non qui veramente topless, non trovano nulla di che. No, non si trovano. Cioè, mi stanno mandando continuamente delle foto di Francesca in situazioni no normali, per carità, no? Sì. Mentre ti trucchi con le gambe, con no? Cioè, sì. Ah no, quello con le gambe dove imito la Jespica, quindi... Sì, con le gambe un po'... Sto facendo parodia. In posa, diciamo, sì, è vero. Esatto, facendo... esatto. Va bene, esatto. Dai, un abbraccio, ciao, ciao, bacio. Grazie ciao, a voi, buona serata, ciao. Ciao. Saluti, signore. Allora andiamo a Umberto, provincia di Imperia, vai. Eccolo qua. Vai, dimmi. Pronto? Vai Umberto, vai. Volevo fare una riflessione su quanto è accaduto. Una riflessione, sì, una riflessione. Per, sì. per la sparatoria contro quel. Sì. L'uccisione di quel bandito. Sì. Mi ha stupito il fatto che questa persona, che poi ho sentito dalla vostra radio, che è stato accusato di omicidio volontario, no? E che è un avvocato, un uomo di legge. Quindi voglio dire. Vabbè, non è che gli avvocati. Come sai, no, in Italia scusa. È pieno di avvocati, cioè. Ma ce n'è più che cioè amico più che mio, però, voglio dire, però voglio dire ma come il telefonino segnala che c'è un'effrazione in casa e tu anziché prendere la pistola e partire come un vendicatore della notte non chiami la polizia, i carabinieri, magari l'hanno chiamata magari l'hanno chiamato lo stesso, magari era più veloce, là c'era il padre in quella casa, ragazzi, ma non è che possiamo pensare che questo avvocato Francesco Palumbo che ha ammazzato un ladro sia un po' un pazzo che si è avventato lì ma con la pistola. C'era il padre o non c'era? Perché c'era il padre in prendito. Casa c'era il padre in casa. Vabbè, comunque sì, aveva maggior ragione. Ma qual è il problema? Non ho capito, ma perché siete fissati? No, qual è il vostro problema? Ma perché siete semplicemente che quello indagato doveva... per capire la dinamica? Qual è il tuo problema, Cruciani? Qual è il tuo? Perché sei contro la legge? Qual è il no, tuo io problema? Io non sono contro la legge. Io sono 9 su 10, queste persone che vengono inizialmente indagate come atto indagate. Dovuto, poi vengono ovviamente prosciolte e neppure rinviate a giudizio. Ah. E lo sai, solo che tu che sei un criminale sei contro le imprese, contro gli investimenti delle imprese io, che dall'estero vengono in Italia, sì, perché il risultato è questo, di questo baraccone che da 6 anni a questa parte metti in scena. Siccome tu sai questo, in modo criminale continui a titillare la pancia di questi dementi che poi chiamano facendoli credere che puoi sparare all'impazzata, no. Cosa che purtroppo già puoi Chi fare perché la legittima difesa già ma esiste. Questo adesso lo metteranno in croce, vedrai, lo metteranno in croce. Ma Lucio, cosa, ma Lucio da Pavia, vedrai, Lucio. Vedrai lo metteranno in croce. Certo. Ha sparato, ha ucciso. E allora un ladro è un assassino tecnicamente, come lo vuoi un chiamare? Assassino. Ma sicuramente un assassino. Tecnicamente. Ma cos'è tecnicamente? Ma tu sei un assassino, uno ma che va in casa propria, trova un ladro che mette la manita. Ma uno che uccide un altro, come ragazzi, si chiama a casa ma tua? Ma ditegli qualcosa a questo come criminale. Come lo chiami a casa tua? A questo criminale come lo chiami? In collegamento da Pescara. Ditegli a casa qualcosa, tua, andatelo come a trovare chiami? A Pescara, dov'è? Ma andatela a trovare. Come ma lo dai, chiami? Su, tecnicamente un uno che uccide un altro, come lo chiami? Ma gli andrebbe messa una medaglia. Poi una l'ha medaglia. Fatto per legittima difesa e quindi verrà ovviamente neppure rinviato a giudizio. Francesca è un'altra da Roma. È uno che ha ucciso, lo ha fatto per legittima difesa e quindi non verrà Francesca, neppure dai. Rinviato a giudizio. Lucio, scusa, aspetta un attimo, adesso torno da te, Lucio. Francesca, vai, dimmi. Ragazzi, no, veramente ho dovuto spegnere la radio perché sei inascoltabile su quello che stai dicendo sulle donne. Ma perché, scusa, che cosa ho detto di strano? meno ho male, detto, brava, meno male. Perché? Perché stai facendo passare l'idea che una donna debba rifiutare o meno, quando non fa capire che l'uomo non debba farlo affatto. Certo? Esatto, che esatto. Vuol dire? Ma dove vivete? Nel mondo dei suoi? Io sono donna e tu sei maschio del cazzo e non lo sai, quando ti mettono le mani a culo ti chiedono ti sento poco, devi levare o viva voce o l'auricolare. Questo è il punto. L'auricolare, cioè l'auricolare? No, no, non questo è il punto. No, mettiti bene, ti prego, maiali, mettiti bene. Allora, questo è il punto. Brava, sì, bravissima. Allora, qual è il punto? Dimmi. Qual allora, è il, punto? Il punto è questo, è che tu dai per assodato che un uomo si debba provare e la donna tocca alla donna. Ma chi l'ha detto che lo do per assodato? Lo do. Ma è la realtà di quello che accade, non è che puoi pensare di cambiare. Ma chi ha detto che è normale? Io non l'ho mai fatto in vita mia. Ma io non l'ho mai fatto in vita mia. Ma di che parli? Ho capito che non l'hai fatto, ma non puoi accettare le parole di Feltri, che secondo me è un pervertito, odia semplicemente le donne per essere ossessionato dai particolari dello stupro di Asia Argento, perché questa è la verità. Scusa, quando uno dice, una racconta, Weinstein entrò nella mia cabina e poi si masturbò di fronte a me, cioè uno dice, mi trovavo su uno yacht e stavo dormendo quando Harvey ruppe nella mia cabina e si masturbò di fronte a me, ha detto un'attrice, una delle tante. Poi un'altra dice ancora, Asia Argento dice per esempio che ha dovuto subire una specie di, no, di cunnilingus. Tu vuoi, gli dai un calcio in culo, un calcio sui coglioni e te ne vai, cioè questo ma è il punto. Ma detto, perché è detto. Quello è il loro mondo, è come il mondo della cassiera. Ecco, è loro mondo, è il loro mondo, è il loro mondo della cassiera o della l'impiegata che accetta l'abuso del padrone e in quel caso ma quale padrone, ma di che parli, ma quale padrone, gente ha 21 anni ad Hollywood, puoi fare il cazzo che ti pare, se uno hai... ma sì, ma... e se no, se non lo fai e dopo lo frequenti e dopo frequenti il cosiddetto aguzzino per anni e dopo lo frequenti ci sono questa foto, questa è un'altra questione. Dai, non c'entra nulla, fermi tutti. Però... fermi tutti che fra poco arriva una persona, fermi. Adesso parliamo seriamente, siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo! La Zanzara. Parenzo, ti voglio carico! Crucio, ricordati sempre una cosa, che il pompino di una brutta figa è come l'alpinismo, l'importante è non guardare di sotto. La Zanzara. È strano, sai, ritrovarti qua, è così bella come sei, al passo con questa città che corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Milano è un suono leggero, Milano che corre su al cielo, Milano è il ghiaccio bollente, Milano sei tutto, sei niente, Milano sei uno tra i tanti, Milano che va sempre avanti, Milano col trucco perfetto, è il sogno di un grande architetto. Sei pronta per un altro lunedì? Lo so che non ti arrenderai, no. Sorriderai nelle pubblicità e si vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive. Milano le donne eleganti, Milano le antenne giganti. E qua ci siamo. Milano è un bici attento e corri nel traffico lento. È una delle mie canzoni preferite. Io impazzisco per questa canzone. Quante volte te l'ho detto? Io impazzisco. David, ma lo senti che cazzo è questa canzone? Il lunedì. Sei esatto. Per... cioè, David, ci sei o no? Ma questo dove cazzo è finito, David? Un coglione totale. Cioè. Cioè, proprio se ne va nel momento topico con le cuffie, fa sparire l'audio. Sei un cretino! Ritorna in onda! Omar Pedrini con noi, ciao Omar. Ciao, ciao. Mazza, cazzo, che regalo che mi hai fatto. Ma lo sai che questa canzone io la sento continuamente? Tra l'altro, se la vai a cercare su YouTube, ma che cazzo di protezione ci avete? Cioè, non la trovi? Non, cioè, la trovi, sì. Non la trovi, maledetti. I tentacoli della Warner. Cioè, i tentacoli della produzione impediscono che la vai a trovare su YouTube. Allora, Omar Pedrini è qui con noi, però non per... Ci sei o no, David? Sì, sì, ci sono. Che sono, cazzo hai fatto? Chiedevo dove fosse. Ho sentito tutta la meravigliosa canzone che ha fatto, stupenda, l'architetto che ha fatto Milano, meravigliosa, una cosa... Sì. Voglio confessarti questo, io forse alcuni baci a delle fidanzate li ho dati col sottofondo delle sue canzoni. Ad esempio... Questo è il solito leccabulismo. Questo me l'ha detto a Padova, quando io e la moglie padovana ci siamo incontrati. La canzone era Verso Oriente. Era Verso Oriente, bellissima. Mentre Cruciani fa le sue porcherie con il signor Ruggero dei Timidi, con altre, con quelle robe lì, quelle parete, e Cruciani sta andando a trans, quelle robe lì, lui si eccita per quello. Io invece, quindi complimenti. Bene, andiamo avanti. Sentiamo, scusa una cosa. Canzone. No, però scusa. Si era staccato il codec. Sì, vabbè, ma tu, io non ho capito una cosa. Ma tu sei, Omar, più parenziano o crucianiano? Da grande ascoltatore della Zanzara, dimmi la verità. Da grande ascoltatore, io sai che sono di origini. Popolari, working class, sono, e allora? Progressista, e dunque sei più parenziano, però no, sono tra incudine e martello, direi. Diciamo, cioè, la maggioranza, le radici con Parenzo, classico autore, poi Parenzo lo sappiamo, ha avuto la svolta leghista, ma ne parliamo un'altra volta. No, mai avuto. Cioè, non ho capito una cosa, Omar, tu sei, per esempio, se uno ti dovesse entrare dentro casa, tu la pistola la useresti o no? Diciamo la verità. Io, ora che ho una bambina piccola, temo di sì. Io, cioè, tu li capisci quelli che sparano dentro, sì, le case, o no? Sì. Poi, ecco, un po' di buonsenso ci vuole sempre, però credo che il terrore di questi tempi che ti possa succedere possa anche muovere la mano. Questo è il motivo per cui non ho mai voluto armi. Io ho fatto l'obiettore di coscienza quando il militare era obbligatorio. Vabbè, quello una volta, però non la prenderesti. Avrei in paura di usarla. Sì. Sono stato un rissaiolo, è un passato un po' violento. Beh, questa no, è arcinoto. E poi una svolta pacifista. Adesso, ecco, so che se prendessi una pistola sarebbe pericoloso, certo, per quello, quindi non la voglio. Bene. Ma la paura c'è, ecco. Allora, Omar Pedrini, questo è il messaggio da mandare. Ma questo è il messaggio, non c'è nessun messaggio in questa trasmissione da dare, cioè, allora, Omar Pedrini ha scritto un libro che si chiama Cane Sciolto, che è un po' la sua biografia, l'ha raccontata anche in una bellissima intervista di qualche mese fa al Fatto Quotidiano, in cui racconta tutta la sua vita disgraziata, che in realtà non è troppo disgraziata, perché adesso si è rimessa in sesto, ha fatto un sacco di operazioni al cuore, mi raccontavi, circa 3 operazioni, eccetera. C'hai una specie, che c'hai una cicatrice enorme qui sul tetto. Tatuaggio più importante tra gli altri che hai, che questa apertura qua quello davanti. Io non ho capito una cosa: cosa è più difficile secondo te, uscire dalla dipendenza della cocaina o dell'alcol? È sicuramente molto più difficile dell'alcol. L'alcol sì, perché diciamo l'alcol, cioè, è stata una brutta bestia per me, perché innanzitutto lo trovi ovunque, la tentazione ce l'hai, certo, anche in autogrill. Anche la cocaina, non è che... Oggi la cocaina sì, è diffusissima, io poi vengo da Brescia, una città dove, ecco, non manca sicuramente la droga, quindi è facile trovarla anche quella, però comunque rimane una cosa proibita. Cioè, per te, di fronte a queste due dipendenze che hai avuto, che hai raccontato più volte, la cocaina e l'alcol, adesso come stai, per esempio? Stai benissimo? Adesso sto bene. Cioè, la tentazione dell'alcol ce l'hai ancora? No, non ho la tentazione dell'alcol, perché, ecco, alcolista non lo sono mai stato, per fortuna. Bevi il vino ogni tanto la sera? Certo, sono un grande appassionato di vino, però, ecco, un conto è goderlo, degustarlo, un conto è bere per l'alcol e non per il gusto. E la tentazione della droga non torna ogni tanto? La tentazione sì, perché è talmente diffusa oggi che è difficile essere in compagnia che non ci sia quello che propone la sostanza. Cioè, cos'è che fa più schifo della cocaina, per dirlo? Cioè, ma sicuramente che cambia, cioè, molto sesso, il carattere. Per esempio, è una tragedia, o per te invece fu un'esaltazione? No, il sesso è una tragedia, perché io quando pippavo non avevano ancora inventato il Viagra. E dunque? Quindi, era una tragedia. Era una tragedia, cioè la bassa bandiera. Cioè c'era proprio la, era una tragedia. Dobbiamo dirlo, tu dici che oggi il cocktail è quasi impossibile per un uomo sotto cocaina avere rapporti sessuali. Per cui tu dici che adesso invece oggi fanno il mix con le pastigliette magiche. Che, no? Che però è un disastro per altri motivi, insomma, diciamo. Credo di sì, non sono un medico, non penso. Non credo sia. Senti, tu con le tue esperienze che hai avuto, diciamo, non positive, anche se qui non vogliamo fare i moralisti. No, io so di essere cresciuto tanto anche attraverso le tempeste. Si impara forse più attraverso le tempeste. C'è che dubbio. Attraverso. Tu sei per esempio a favore della legalizzazione della droga? Totalmente. Io l'anno scorso ho girato tanto per la campagna antiproibizionista. Cioè delle droghe leggere o anche delle altre droghe? No, io sono convinto che ci voglia tolleranza. Cioè quando anche, dicono anche, che non, anche il modello la cocaina olandese, o l'eroina sono quelle pesanti no. Però quelle leggere sì. Assolutamente, anche perché il gusto del proibito che spesso induce il ragazzino a farsi la canna. Senti, ma oggi tu chi voteresti? Oggi non è facile, non essendoci più Pannella. La Bonino c'è sempre, non è facile. Perché Bonino è scomparsa. Bonino. Politicamente scomparsa. Però ecco, sei scomparso. Tu e le tue porcherie sono scomparse, per fortuna. Ma tu sei, che ne so, voteresti per la Lega, non voteresti mai? Per la Lega no, anche se in passato, nel libro racconto, c'è anche un capitolo dedicato ai miei incontri politici. Cioè quando Salvini lavoravo lo apprezzi, in Rai. Mi sembra, no? Salvino è un personaggio che ho apprezzato in passato, l'ho incontrato anche perché mi aveva proposto di usare una canzone dei Timoria che scritta da me che si intitolava Lombardia per il movimento non verso Oriente appunto. Poi, quella è un'altra, però non la voteresti mai. Però oggi ha preso una deriva molto molto di destra e a volte sentirlo mi fa paura, anche se rimane una persona. Cioè non potresti, chi potresti? Oggi Bonino, non faccio dichiarazione perché sono confuso, non perché io non voglia, però radicali, anche i 5 Stelle hanno avuto un grosso fascino su di me. È un partito la Bonino, che non mi dispiace. Che radicali che c'è? Di 5 Stelle ha detto radicali. Ma che c'è? I radicali sono la cosa storica, cioè potrebbe 5 Stelle, cioè, per cambiare, no? Cioè, potrebbe essere un buon tentativo. Essere. Capito, Parenzo? Potrebbe essere. Ti fa schifo questa cosa a te, ti fa orrore. No, a me no. Lo scorso anno ho accompagnato Pippo Civati in questa campagna antiproibizionista. Abbiamo girato l'Italia insieme e ho trovato una persona squisita. Mi piacciono le sue idee. Capito? Poi quando uno vota da pater familias deve pensare anche magari ad altre cose. Senti, facciamo una canzone finale che è quella del tuo istituto. Fai un concerto, mi sembra. Sono venuto per invitarti il 26. Vuoi invitare il 26 di ottobre all'Alcatraz a Milano, dove allora, tornerò 26, a Milano dopo andare tanti anni. 28, dunque 26 a Alcatraz. 28 a Roma. Bene, 26 altre 28 a Roma. Ah, cazzo, io non ci sono il 28, porca miseria. Ma tu dove cazzo sei il 28? Sono a New York il 28. Ma che va a New York? Ma torna in Italia prima, che ci frega. Non ci sono, mannaggia. Vai. Mi fai però soltanto l'accenno di Verso Oriente, anche per farti ma Verso Oriente è una roba vecchia, dai, vattela a sentire, vattela a sentire col disco, dai. Chiudiamo come se non ci fosse un domani. Ciao Omar, ciao. Vai. Ciao, ciao Beppe, ciao. Mi sveglio e sento che ho già paura. Ti prego, rimani qua. La notte ci porterà lontano. Partiremo su quelle astronavi. Fuggiremo dagli esseri umani, io e te, come se non ci fosse un domani. Lontano da qui, motore. Chiedo scusa un momento, chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. Pronto, pronto, prima si parlava di Mussolini. Bastardo! Parenzo, il mondo della prostituzione è pieno di miserabili e il politico 2 settimane fa che voleva provarci con la segretaria senza mai neanche averla pagata in nero, cos'era? Oh. Oh, bravo, hai fatto spengere anche il telefono al tuo amichetto, così non vi disturba nessuno mentre andate a fare gli aperitivelli o le cenette con le zoccole, eh? Falso de merda! Falso de merda! Omo de merda! Lasci a casa la frega, eh? Vai a fare i cazzi tuoi! Ma vergogna, ti hai trovato un gioiello! Ma a te ti piacciono le prostitute, quelle che la danno via al primo incontro. Bravo, fai bene! Le cagne tossiche come te te meriti, merda, doppia merda, tripla merda. Sei un essere vergognoso, putrido, dottor incontro in giro, te fochi a pamenata la gente, anche se la conosci, dico me ne metà questo te pago 1000 euro. Pezzo di schifo, brutta merda, sfigato, morto di fica. Questa era una Umbra, una donna, una donna, ragazza Umbra, incazzata con uno che evidentemente la tradisce. No, no, che c'entro ah, io, scusa. No, pensavo ce l'avesse con te, ah, in magari generale, ce l'ha anche con me, ma non credo, cioè, non sì, credo. Cioè, sì, no, sì. Ma no, e io, come mai avete questo audio? Ma non ho non nulla capisco a che fare, mi arrivano, mi arriva qualsiasi cosa. No, ma questo, capisci che comunque è molto curioso, cioè questa gente qua si sfoga col fidanzato e manda l'auto, ma è tutto pazzesco però, o no? Ragazzi, mancano 110 firme e raggiungiamo i 5000. Raggiungiamo i 5000. Raggiungiamo i 5000, il momento del buonismo. Prima c'è stata una parentesi buonista con l'amico Omar Pedrini, per carità. Okay. Però noi ci scaldiamo solo quando abbiamo la battaglia, diciamola tutta. Qui si erano aspettano solo la battaglia anche dietro il vetro, non vedono l'ora, non ma vedono qua, l'ora. Dietro il vetro sono una manica di perversi, quindi... Adesso mi sa che chiamiamo la signora del Santo, che ha qualcosa da dire, la signora Lori del Santo. Ha qualcosa da dire nel caso Asia Argento. Ma cosa vuoi Asia che sappia Argento la signora del Santo? Lucio da Pavia intanto. Lucio, vai, che è un po' che aspetta, vai. È caduto Stefano da Roma, vai. Stefano? Pronto? Dimmi, sì, Stefano, dai. Dimmi. Allora, no, io volevo tornare un po' a quel discorso perché mi sono collegato da poco con voi. Vai, dimmi, su Asia Argento. Sì. In pratica, io non so se voi siete andati a fondo sulla questione. Che vuol dire andare a fondo? Spiegami. No, nel senso, io sono andato su Wikipedia. Sì, in pratica, Wikipedia, cioè Wikipedia. Eccolo qua. Eccolo qua che arriva. Eccolo che arriva. Lei nel 92 sì, fece un eccolo film a 16 anni sì, che si eccolo chiamava L'amica del cuore. Con Michele Placido, sì, Michele. Ecco, ma io non è, magari ecco, voi già lo sapevate. No, allora il portavoce o assistente di Michele Placido ha smentito qualche ora fa, ovviamente poi magari è vero, non lo so, ha smentito che la persona in questione di cui parla il signora Sargento possa essere appunto Michele Placido. Però, scusa, che ti devo dire? Ma il discorso è questo, cioè io andando a vedere su Wikipedia cioè i film fatti nell'epoca, nel 92 a 16 anni risulta solo ho capito, amico mio, io ti film sto dicendo che la regista... Ma è un film che non è mai uscito, ma adesso cosa fa l'ispettore Clouseau questo qui, Derrick? Che te ne frega? Non è, ma chi gliene frega di saperlo? No, sta dicendo una cosa molto semplice. No, sta dicendo una cosa molto semplice. Molti hanno sospettato di Michele Placido, però io dico una cosa: siccome è una caccia alle streghe, la signora Asia Argento, siccome oggi ha lanciato, ieri, non mi ricordo in quale intervista, ha lanciato una nuova accusa. C'è un regista italiano, lo sono andato a trovare in una roulotte, nel camper, non so che cazzo era, per parlare della parte. Questo qua mi ha tirato fuori il pisello. Sì. Faccia il piacere, siccome attacca le persone, si è scatenato una caccia al regista, una caccia alle streghe. Non si è scatenata, ma come no? Caccia. Come no? Tant'è che il portavoce di Michele Placido ha dovuto smentire. Ci faccia il piacere di fare nomi e cognomi quando accusa qualcuno. Ma altrimenti, dimmi. Soltanto una cosa. No, volevo dire, cioè, io non è che faccio l'accusatore di Michele Placido, chi che sia. Io ho telefonato per dire semplicemente questo. A parte che quel film parlava di incesto, cioè tra il padre e la vabbè, figlia. Allora, ma che vuoi dire? No, non ho capito. Ma cosa no, vuol dire questo, il film? Che poi un regista, ma cosa vuol dire la storia di un film? No, se posso dirla tutta. Cioè, allora, il regista, nel senso, noi ci ricordiamo anche i film, questo perché è una scena, diciamo, vabbè, allora dai, vai, allora. Però, tipo come Fellini, cioè quando prendeva schiaffi il proprio attore, cioè questo magari per renderla più peritiera, magari l'attrice rendendola più... Vabbè, più, cioè, Stefano, ho capito, Maurizio da Roma, poi intanto abbiamo già Lori del Santillini, Maurizio da Roma, vai, Maurizio, dimmi. Pronto? Dimmi. Oh, finalmente. Vai. No, dicevo, per quanto riguardava una memoria storica, Vallettopoli insegna... Sì. La Gregoraci, che noi allora era perfetta sconosciuta, trovò il suo successo grazie a Vallettopoli col portavoce di Gianfranco Fini, che era dirigente Rai, sì. E non è lontano, io lo ricordo a memoria di che dunque che vuoi dire? Tutti romani. Ti dico, non era Fini il protagonista, ha detto lui, no, il portavoce, a Piazzale Clodio, che è la piazza vicino alla Rai. ci sono due roulotte che sono alla conoscenza di tutti, che molte persone dovevano frequentare se volevano entrare in Rai. Ma questo quando? Stato... In che anni? Ma da sempre, senza andare lontano, un film di Tinto Brass, uno dei penultimi, ancora riporta i famosi divanetti che erano... Sì. Noti. Dunque, ecco, che vuoi dire con questo? Che vuoi dire? Voglio dire che nei tempi, o per raccomandazioni politiche, o per privilegi sessuali, si poteva far carriera in determinate condizioni. Vabbè, questo lo sappiamo. Ciao Maurizio, ecco, ciao. Lori, come va? Bene, grazie. Allora, cara Lori, il caso... questa voce che sembra sia in un iperuranio la signora. No, che iperuranio, ma è sempre tranquilla, tranquillissima. No, appunto, tranquilla. Sono nel silenzio più assoluto. Brava, vedi? Si sente benissimo, cioè, vedete, meglio di te svanita, si sente. Svanita, ma in realtà non che lo svanita, è. Svanita, ma quando ho detto sembra, Io la adoro, sembra. La signora del Santo. Anch'io, allora, ma figuriamoci, è stupendo. Allora, cara Lori, io non ho capito una cosa. Sì. Tu hai mai ceduto, cioè, l'hai mai data per in cambio di una parte o in cambio di un, che ne so, di un ruolo? Ma io voglio dire questo, a me mi spaventa questa cosa che uno dopo 30 anni se ne esca con accuse pesanti. Io trovo giusto dopo tanti anni, 30, sì, 40 anni, magari raccontare un episodio se ha della cosa per far ridere, del materiale per far ridere, cioè a chi non è capitato? Cioè gli uomini ovviamente ci provano, sì, ci sono quelli che ti mandano le rose, ti invitano a cena, ci sono quelli che lo fanno un po' più, chiamiamolo, porcamente. Certo, no, ma... cioè, allora a me, anche a me ovviamente mi è capitato un grande regista che ci ha provato in maniera assolutamente inusuale e che mi ha veramente meravigliato, non posso scordarmelo finché Ma si può dire, si può fare il nome? Beh, era un regista importantissimo dell'italiano, molto famoso, ovviamente mondialmente. Ma morto? Sì, quindi cioè, il punto è che mi ha sconvolto la maniera con cui... Come ci ha provato, scusami? Beh, io l'ho conosciuto, stava preparando un film importantissimo, sì, e mi ha chiesto di andare, mi ha fatto chiamare non so da chi, della segretaria, di andare a far vedere le mie foto, sì, nel suo studio, sì, nel suo ufficio. Sì. Io pensavo fosse un ufficio con tanta gente, ma io non ero Lori del Santo, io ero sconosciuta ancora. Sì. Ero appena dove arrivata a Roma. Il suo ufficio era a Monti? Cioè, e poi avevo conosciuto anche questi attori famosi americani che erano lì a Roma, sì, e quindi sai, è entrata nel mondo dell'haute couture del cinema. Perché allora sei andata da lui? Sono andata da lui, apre la porta, molto gentile, e arriviamo in una stanza dove c'era una scrivania un po' antica così, molto formale, e lui è stato molto gentile, ha guardato le mie foto, avevo un book con le fotografie, sì, bianco e nero. Mi ha guardato un attimo, poi mi ha detto scusa un attimo e poi è sparito. Però mi ha stupito il fatto che non c'era nessuno in questo ufficio, cioè non c'erano segretari. Poi è tornato, immagino, no? No, mi ha chiamato e ha detto scusa, vieni, sono andata di là e cosa vedo? Ah, lui era praticamente nudo, ma aveva un perizoma, quindi non ho mai visto l'oggetto in questione, un perizoma rosso senza il dietro, proprio tipo quello, il tanga con il filo interdentale, rosso. Era ciccione questo qua? Beh, sì, mi faceva un po' ribrezzo questa pelle bianca, insomma io ti dico che siccome ero inesperta delle pratiche maschili, ancora, perché ero veramente molto giovane, trovandomi in una situazione del genere, io ho cercato di, lui non mi ha costretto, e quindi voglio dire... Tu non ci sei stata, te ne sei andata, che hai fatto? No, mi sono languidamente slacciata da questo tentativo di abbraccio, che poteva anche sembrare romantico, uno che ti abbraccia così, anche che non riuscivo a prendermi perché sai, lo stomaco, le cose, però insomma io mi sono slacciata e mi sono divulgata, cioè me ne sono gentilmente, scusa, dileguata, no, per favore, dileguata. Sì, ecco, non ho mai però preso scusami, nessuna Lori, parte. Scusami Lori, scusami un attimo, ma adesso non per uno col perizoma rosso, un po' grossetto, grande regista italiano, mi viene in mente una persona a me, scomparso. Non lo so, io non è che voglio mai, non ho mai detto il suo nome, però voglio dire... Signor Fellini mi sembra, no, Davide, Fellini, che dici? No. Fellini, no. Fellini, no. Parenzo lo sa però. No, io ho chiesto prima se il suo ufficio era Rione Monti, ma lei non ha risposto, ma non importa. Ah, non ho sentito? No, mi ricordo sì, benissimo dove era l'ufficio, non era Rione Monti, ma si può dire chi è questo qua? Si può dire o no? Ma guarda, è talmente facile indovinare che... Certo. Che... non lo so, dimmi chi è. No, è un regista che nel Novecento, diciamo, è stato importante nel Novecento. Vabbè, che ne so, Davide, l'hai capito tu? Io non capisco un cazzo, lo sai che di cinema non capisco una sega. Dimmi, ho capito, ma se non lo vuole dire, non è che posso fare io dei nomi a caso. Che mi ha sconvolto, perché un uomo ha un pericolo? Comunque ha fatto film internazionali, dai, certo, anche in America, questo ti sta dicendo. Non lo so, era famosissimo, uno dei top, ma proprio che quei rari. Va bene, non è Michelangelo Antonioni, non è Michelangelo Antonioni, non è Antonioni. Il pelo bianco, non so, mi ricordavo grigio, bianco, insomma, io voglio dire una cosa, lui ci ha provato, io non ci sono dunque stata. Si può dire di no, dunque tu da sergento cosa rimproveri? Cosa rimproveri da sergento? Io non ho mai fatto una parte in quel film famosissimo che è tuttora uno dei top si può dire di no. Si può dire di no, sì. Ecco, esatto, sì, lui, io ho detto di no, non ho preso nessuna parte. Però qualche volta hai dato sesso in cambio di qualcosa, cioè trovi legittimo però trovo che legittimo farlo, ma siccome io sono sempre stata preoccupata che i fatti non seguissero le parole, non l'ho mai fatto. Cioè tu dici queste mi scopano e poi arrivederci, grazie. Appunto, poi non ti danno niente, capito? Allora questa è la beffa. Cioè farlo per qualcosa va bene, ma farlo per niente è proprio... Quindi bisogna prima vedere cammello, poi dare sostanza, insomma. Cioè è una presa in giro. Scusa, che va oltre. Scusa, un pompino o una cosa simile, ancora, o il sesso in cambio di una parte o di un lavoro, non è come la prostituzione alla fine? Cioè... è come la prostituzione, cioè un do ut des, tu dai qualcosa, io do qualcosa a te, tu dai qualcosa a me. Certo, le parti sono uno è più, no? Ha più potere. Bisogna rispetto... vedere se c'è la costrizione. Se ah no, tu, ma certo, stiamo parlando. Se uno ti invita a farlo e tu non lo fai, è una cosa, se uno ti costringe, è un'altra. Allora uno deve denunciare subito. Non si può rovinare una persona dopo 100 anni che è successo, fa un'altra vita, c'hai figli, e che poverini, certo, adesso saranno scioccati che c'hanno 4 anni tutta la vita. Voglio dire, dillo le cose, dille subito, ma non dirle quando ormai sei una star mondiale che magari ti è servito pure, no? Ma qualche volta andare con i potenti, tu sei andata con diversi uomini potenti, diciamo la verità, non è che non sei andata con uomini potenti, diciamola, ti è servita a qualcosa o no? Beh, perché io volevo conoscere il mondo del potere, è servito a conoscere i pregi, le virtù, le deficienze di gente che tu ritieni chissà chi, che invece poi alla fine sono delle persone molto piccole in certi aspetti, cioè. Io volevo conoscere il mondo. Ma economicamente, economicamente ti è servito andare con quelli potenti? Guarda, io non ci ho mai tirato fuori granché, qualche regalo, ma denaro vero, no? Qualcuno che ti ha regalato una casa o denaro vero, no, niente. Quello si ottiene solamente magari quando c'è un coinvolgimento un po' più un matrimonio, amoroso, diciamo, un matrimonio. No? Sai, quelle cose dove uno si innamora un po', oppure quando uno è estremamente generoso di natura, che è talmente ricco che ti fa il regalo, ecco. Però io sono una che sono sempre stata molto attenta e non mi è mai piaciuto essere trattata proprio bene, come merce di scambio. Però posso dire che ho dovuto, ogni volta che ho incontrato un uomo, tutti ci hanno provato in qualsiasi campo e in qualsiasi struttura. E lo trovi normale? E lo trovi normalissimo? Lo trovo normale, sì, lo trovo normale. Certo che appunto, ma dipende come uno ci prova, scusi però signora mia, dipende come uno ci prova, no signora del Santo? Senti, dobbiamo chiudere, certo. un'ultima cosa, un flash, finale, perché sai che mi piacciono queste cose. Scusami se ti faccio questa domanda intima, però interessa molto a Vittorione Sgarbi. Tu ce l'hai completamente rasata oppure con un po' di pelo? Guarda, io sono talmente svampita, come dice quello lì di prima, che mi dimentico di fare tutte queste operazioni. Dunque ce l'hai pelosa? Ce l'hai pelosa? Diciamo che può capitare una cosa come un'altra e va a fortuna, va a sfortuna, non lo so. Cioè ogni tanto non ti depili e la fai e fai crescere la peluria. Il fatto che io personalmente penso che è meglio con, perché non è sexy per niente. Bene, brava, però bene così. Per raggiungere una cosa. Trovo osceno che tutte queste attrici americane, tutte in blocco, abbiano denunciato questa persona. Tutte in blocco, è uno schifo. Sì, anche veramente. Io trovo uno schifo. Ma vergognati, stai zitta, perché tutte in blocco. Allora, una ci sta, due ci sta, ma tutte.